Birgitta. Nella sala d'aspetto del poliambulatorio in centro, Birgitta Nilsson pensava ancora a Tommy e Ingrid Steen. Due persone fantastiche, intelligenti e spiritose. La piccola Lovisa aveva ereditato la bellezza della mamma e la brillante abilità linguistica del padre. Si tirò sulla manica della camicia e si grattò l'eczema che le era uscito sul gomito. Poi si passò delicatamente una mano sulle costole doloranti del fianco sinistro. Le mancavano 2 anni alla pensione. Suo marito Jacob avrebbe già dovuto esserci, ma aveva uno studio da commercialista e voleva continuare a lavorare. A volte Birgitta fingeva che se non fosse stato così, avrebbero comprato una casa in Spagna, dove vivere sereni la vecchiaia. Che i loro gemelli, i 20enni Max e Jesper, ogni tanto sarebbero andati a trovarli con le rispettive fidanzate. In realtà non sapeva che farsene di una casa in Spagna. L'unica cosa che desiderava nella vita era l'amore delle persone che amava. Era così immersa nei suoi pensieri da non accorgersi dell'infermiera che la stava chiamando. Birgitta Nilsson. Mi scusi, mi ero persa nei miei sogni. Birgitta si alzò e seguì l'infermiera lungo un corridoio che terminava davanti a una porta socchiusa. L'altra le fece segno di entrare. «Grazie, e scusi se inizio a perdere colpi, è la vecchiaia», disse prima di entrare nell'ambulatorio. Il medico era un uomo elegante sui 35 anni, con i capelli neri pettinati all'indietro, la mascella forte e le labbra piene. Strinse la mano a Birgitta e le disse di accomodarsi. Lei osservò la foto incorniciata sulla scrivania. Su una spiaggia, una bella donna dai capelli scuri e 2 bambini dalle ciglia lunghe guardavano ridenti l'obiettivo. Il medico si schiarì la gola, ma Birgitta non lo ascoltava. «Che bella famiglia!» esclamò mentre l'uomo iniziava a parlare. «Deve essere così orgoglioso e felice di quei 2 angioletti e della sua bella moglie!» «Grazie», disse il medico spostando lo sguardo sulla fotografia. «È vero, ma torniamo al punto». Indicò il foglio che teneva in mano. Solo allora Birgitta si accorse che aveva l'aria preoccupata. «Mi scusi, perdo tempo a parlare di sciocchezze mentre lei ha altri pazienti che aspettano. Vada avanti, la prego». Il medico si scostò una ciocca dalla fronte e si grattò una guancia, fissandola con occhi gentili. «Purtroppo la situazione è quella che temevamo. Ha un tumore al seno». Il medico aspettò una reazione che non ci fu. «Ha sentito cosa ho detto, Birgitta?» «Certo, certo». L'uomo si sporse in avanti e mise una mano sulla sua. «Capisco che sia scioccata, spaventata e preoccupata, ma le probabilità di sopravvivenza sono buone. La chiameremo non appena avremo fissato una data per l'operazione». Birgitta gli sorrise. «Andrà tutto bene. Stia tranquillo». Poi si alzò, facendo stridere la sedia sul pavimento. «Vuole che chiami qualcuno che la venga a prendere?» Birgitta scosse la testa. «No, meglio non disturbarli. Ce la faccio da sola». Il medico borbottò qualcosa e Birgitta gli porse la mano per salutarlo. «L'abbiamo convocata un sacco di volte per la mammografia, ma non è mai venuta». La guardava con aria interrogativa. Birgitta sorrise. Non poteva certo raccontargli la verità. «Sono sempre molto impegnata, sa?» Gli lasciò la mano e uscì.